Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche a quest'altra puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon. Oggi parliamo ancora della fantasia e il potere, ma per fare il focus tra l'immaginazione, il cemento delle favole e la scienza. Il Pioniere di Rodari era una sorta di rotocalco con grande spazio dato sia alle fiabe che alla divulgazione tecnico-scientifica. Dunque, forse una schizofrenia editoriale, il famoso io diviso, un psycho tra il mondo della ragione e quello della fantasia. Non certamente per i direttori del Pioniere Dino Rinaldi, Gianni Rodari, che non vedevano affatto contrapposizione per lo sviluppo del bambino tra i due elementi. Anzi, per Rodari, fin da bambino, ammaliato dai racconti fantastici di Jules Verne, le due cose vanno avanti insieme, perché la fantasia vive nel mondo della scienza e la scienza si nutre dell'immaginazione. Per me il bambino non è una freccia che va in una unica direzione, la scienza, la curiosità delle cose, è un campo di frecce che vanno in tutte le direzioni. E c'è anche la freccia della fantasia, la freccia dell'immaginazione. Poi io non vedo opposizione tra immaginazione e spirito scientifico, anzi, trovo che non ci sarebbe spirito scientifico se non ci fosse immaginazione. Io penso che si debba cercare di non di parlare come il bambino, ma di parlare come il mondo di oggi. Il mondo parla oggi al bambino non solo attraverso le parole dei genitori, ma parla attraverso le immagini, attraverso le macchine, attraverso tutto quello che anima il mondo di oggi. Bisogna trasformare tutto questo in parole se si vuole fare un libro. E Rodari di libri ne ha scritti tanti e di grande valore. Racconti che partono vestendo da filastrocche fiabe la vita reale del popolo lavoratore per passare, nell'arco degli anni 50, a narrazioni da fantascienza per bimbi. Un tragitto che descrive bene un mutamento della società italiana dal dopoguerra all'arrivo degli anni 60. Un percorso ben descritto al Festival della Scienza e della Filosofia da Pietro Greco, già collega di Rodari l'Unità, oggi giornalista scientifico e scrittore, socio fondatore della Fondazione IDIS Città della Scienza di Napoli, membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto Superiore della Protezione alla Ricerca Ambientale della Fondazione Simbola, direttore della rivista Scienza e Società, condirettore del web journal Science and Rete e conduttore del programma Radio 3 Scienza Rai. Perché Gianni Rodari vuole unire la fiaba alla realtà, si mette a scrivere qualcosa come Le avventure di Cipollino? E il motivo è molto semplice: lui era un straordinario cronista, era un giornalista molto molto bravo, diciamo. Quando faceva il cronista andava nel mercato, per esempio a Milano, andava nel mercato e incontrava le donne e gli uomini, un po' meno allora, ma le donne delle famiglie meno abbienti, meno ricche, le famiglie degli operai, andavano in questo mercato e compravano appunto la frutta, la verdura, le cipolle, il sedano e così via. E quindi lui inizia a scrivere per i bambini di questi operai, di queste operaie, comincia a scrivere appunto fiabe che parlano del loro mondo, del mondo in cui vivono. E il mondo in cui vivono è un mondo, diciamo, essenziale, soprattutto nell'immediato dei primi 10 anni dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia era ancora abbastanza povera, quindi il primo obiettivo di una famiglia era mettere insieme il pranzo con la cena, e quindi andare al mercato era un'operazione davvero importante, perché si avevano pochi soldi e si cercava di comprare il più nutrienti possibili. Quindi parla di cipollino, parla di pomodoro, parla del principe limone per questi motivi. 10 anni dopo comincia a scrivere delle fiabe, delle filastrocche, delle canzoni, il cui soggetto è completamente diverso. Per esempio scrive filastrocche in cielo e in terra, e c'è questa frase che mi ha molto colpito: in rotta per Aldebaran la vedetta gridò: capitano, un uomo in cielo. Che senso ha un uomo in cielo? È impossibile. E beh, invece all'inizio degli anni 60 comincia a essere possibile, perché per la prima volta gli uomini vanno nello spazio. Yuri Gagarin, poi John Glenn, eccetera, vanno nello spazio. E quindi qualcosa è cambiato. E ad accorgersene che qualcosa è cambiato di profondo è Gianni Rodari, che cambia gli oggetti, i personaggi delle sue proprie filastrocche. Non sono più personaggi frutta e verdura, ma comincia a scrivere di astronauti, di pianeti. Uno dei suoi primi capolavori di questo periodo è Il pianeta degli alberi di Natale. E quindi tutte le sue canzoni, le filastrocche, le fiabe cominciano ad essere ambientate sulla Luna, su Marte, su altri pianeti, su altre galassie e così via. Perché si è letteralmente aperto un mondo davanti a lui. Quindi non più cipolle e pomodori, ma astronauti, razzi e pianeti. Ma attenzione, le fiabe sono realistiche, quelle di Gianni Rodari, anche scienziati matti e bombe atomiche, perché quegli stessi razzi che portano oltre la stratosfera uomini come Yuri Gagarin e John Glenn, quindi astronauti, sono gli stessi razzi che possono portare le bombe atomiche, e quindi nel momento in cui l'umanità si apriva allo spazio raggiungeva anche la possibilità di distruggere completamente se stessa. E quindi capite la contraddizione forte che vivevano Gianni Rodari e le persone del suo tempo. Da un lato il trionfo della tecnologia, ma dall'altro l'angoscia che la stessa tecnologia poteva proporre. Nel pianeta degli alberi di Natale, diciamo, la storia è ambientata non più nei mercati, ma in un altro mondo. Un mondo in cui Marco, il protagonista, sogna che si possa vivere felici senza l'incubo della guerra. E quindi già vedete il messaggio principale che vuole lanciare Gianni Rodari. Dobbiamo costruire un mondo con le fiabe, con l'immaginazione, ma poi con l'impegno pratico, per realizzare un mondo senza guerra, un mondo in pace, un mondo dove la pace e l'armonia sono raggiunti in forma semplice. Mettete dei fiori nei vostri cannoni. Come ti chiami? Sei molto giovane. Mi chiami Brambilla, Fuluperari, lavori la ghisa per pochi denari. E non ho in tasca mai la lira per poter fare un ballo con lei. Mi piace il lavoro, ma non sono contento, non è per i soldi che io mi lamento, ma questa gioventù ci avrei giurato che mi avrebbe dato di più. Mettete nei fiori, nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo. Molenco le malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace, di pace, di pace. In sintonia con questo afflato verso un futuro scientifico tra progresso e catastrofe, il giornalino del Pioniere si arricchiva in ogni numero di tanta divulgazione tecnico-scientifica, annoverando in redazione importanti collaboratori legati all'illustrazione e anche ai testi. In particolare svettò la matita di Amedeo Gigli, che senza nessun bisogno di algoritmi e software vari, metteva a punto illustrazioni millimetriche a commento dei testi in questione. Sentiamo delle sue parole come fu il suo rapporto con il Pioniere. Una ballata di pace, di pace. Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni, perché non vogliamo mai essere. Il rapporto diretto, il riferimento immediato fra me e il Pioniere era Marcello Argilli, e soprattutto quando Dino Platone propose al Pioniere una storia della scienza, della tecnologia, scrivendo lui i testi e coinvolgendo me come illustratore. E questa è stata, diciamo, una esperienza molto importante per quanto mi riguarda, anche per sviluppi futuri, perché grazie a Dino Platone, grazie a quell'esperienza, ho avuto modo

cioè, sia per, come dire, perché ci credeva, sia per arrotondare, ha iniziato questa collaborazione al Pioniere e c'era una doppia pagina, se ricordo bene, settimanale. Io ricordo le pagine di animali, però può pure darsi sì, che ci fossero anche le comete, le stelle. Lui nel viato dopoguerra era anche stato autore di un libro intitolato La Luna, un grande proprio come formato, come fosse un libro d'arte, insomma, in cui aveva argomentato, tra tutte le cose che si potevano dire sulla Luna, aveva previsto che sarebbe stato possibile arrivarci, quindi retrorazzi e queste cose qui, ed era stato sbeffeggiato dal direttore dell'osservatorio astronomico che c'è sulle colline di Torino, che diceva questa è una cosa totalmente impossibile. E quindi ricordo la sua soddisfazione anni dopo, quando invece sulla Luna ci sono arrivati. Ecco, quindi lui faceva queste paginoni molto illustrati, direi soprattutto illustrati, con un testo che stava insieme, dentro, impaginato insieme, immagini. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is Nel 1970 Gianni Rodari viene riconosciuto nel suo valore letterario col prestigioso premio Hans Christian Andersen per la letteratura per ragazzi. Non a caso, anche in questa importante occasione, rivendica il ruolo della favola nella scienza, ed il primato della fantasia in quel mondo sperimentale che uno sciocco senso comune immagina come una fredda stanza di numeri algebrici. Infatti il suo discorso di ringraziamento, come ci ricorda ancora il giornalista Pito Greco, non tratta di fate e pozioni magiche, ma di Isaac Newton. Gianni Rodari unifica il concetto di scienza e fantasia. Ebbene, la scienza e la fantasia non sono affatto disgiunte, non si può fare scienza senza fantasia. Allora leggo brevemente il discorso, anche questo abbastanza strano, che lui fa quando riceve il premio Andersen. Il premio Andersen è un premio internazionale per la letteratura per l'infanzia. Allora lui va e fa un bel discorso e invece di parlare di favole, o meglio, di solo di favole, parla anche di scienze. Facciamo il caso del signore Isacco Newton. Bene, secondo me, dice Gianni Rodari, era una persona serissima. Infatti è vero, era molto serio. Forse troppo, qualcuno dice, perché aveva un carattere, diciamo, non facilissimo. Bene, ora, una volta, se è vero quello che raccontano, stava seduto sotto un albero di mele e gli cadde una mela in testa. Questa è una leggenda, diciamo, ma che spiega molto. Un altro al suo posto, quando gli cade la mela sulla testa, avrebbe detto quattro parole poco gentili, mannaggia, diciamo, e si sarebbe cercato un altro albero per stare all'ombra. Invece il signor Newton comincia a domandarsi: e perché quella mela è caduta all'ingiù? Come mai non è volata all'insù? Come mai non è caduta a destra o a sinistra, ma proprio in basso? Quale forza misteriosa la tira in basso? E facendosi queste domande lui elabora la teoria della gravitazione universale, cioè dice che gli oggetti che si muovono sulla Terra, le mele che cadono sulla testa delle persone che stanno sotto gli alberi di mele, così come tutti gli altri oggetti che si muovono sulla Terra, seguono le stesse leggi degli oggetti che si muovono nello spazio, della Luna, dei pianeti e così via. Questo è uno dei più grandi successi nella storia della scienza di tutti i tempi. Ebbene, dice Rodari, Isaac Newton era una persona priva di immaginazione, dicono alcuni. E qualcun altro avrebbe detto, questo signor Newton è poco serio, crede in forze misteriose, magari crede che ci sia un mago dentro la Terra, pensa che le mele possano volare come il tappeto delle mille una notte. Insomma, alla sua età crede ancora nelle favole, perché aveva elaborato appunto una legge che diceva perché le mele cadono. E invece, dice Gianni Rodari, io penso il signor Newton abbia scoperto le leggi della gravitazione universale proprio perché aveva una mente aperta in tutte le direzioni, capace di immaginare cose sconosciute. Aveva una grande fantasia e sapeva adoperarla. Continua a Rodari, occorre una grande fantasia, una forte immaginazione per essere un vero scienziato, per immaginare cose che non esistono ancora e scoprirle, per immaginare un mondo migliore di quello in cui viviamo e mettersi a lavorare per costruirlo. Ripeto le ultime frasi. Immaginare un mondo migliore di quello in cui viviamo e mettersi a lavorare per costruirlo, ci vuole una grande immaginazione come quella che hanno gli scienziati. Ma chi è che deve immaginare un mondo migliore di quello in cui viviamo? Ebbene, tutti, ma in primo luogo chi fa letteratura, chi scrive romanzi, chi scrive favole. E perché si scrivono le favole? Questo è il grande messaggio che ci dice Rodari. Beh, non si fanno solo per divertire. Certo, non si fanno solo per lanciare dei messaggi, ma per tentare di iniziare a costruire un mondo migliore di quello in cui viviamo. E per fare questo ci vuole immaginazione, ci vuole la mente aperta in tutte le direzioni come quella di Isaac Newton. Alla mela di quell'albero bevi, non toccarla, non mangiarla, e sai perché? Serpente, tienilo lontano da te, non di niente, e lascia la mela dov'è, ci si sdraia sotto l'albero, vedi, nudi, e al fresco della notte. Ancora scienza e fumetto venendo ai nostri giorni con la graphic novel di Sergio Rossi, dedicato a un grande inventore. Il lavoro di Sergio Rossi, Nikola Tesla, con illustrazioni di Giovanni Scarduelli, pubblicato da Becco Giallo nella collana Biografie, ci parla per l'appunto di prophetic visione di immaginazione. Tesla, l'uomo che ha domato l'energia elettrica, era un vero e proprio visionario, degno di certi maghi delle favole della nonna. Con le ragazze di 42 la risposta, sentiamo il proprio Sergio Rossi su questa ultima sua fatica. Sì, è uno scrittore, editor e storico del fumetto. Ha pubblicato diversi romanzi, libri di divulgazione scientifica, come per esempio Che storia, il Big Bang e la nascita dell'universo. Uno degli ultimi è Einstein l'aveva capito, la scoperta delle onde gravitazionali per Feltrinelli, ed è oggi qui con noi, invece in veste di sceneggiatore di fumetti, con la sua ultima fatica, Nikola Tesla, edito da Becco Giallo Editore, disegni di Giovanni Scarduelli. Ti chiederei però innanzitutto di spiegare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici chi era Nikola Tesla. Nikola Tesla è stato uno degli inventori del mondo moderno, come noi lo conosciamo, perché è l'ingegnere che ha costruito la macchina che ha permesso la trasformazione della corrente continua in corrente alternata, cioè quella che usiamo tutti i giorni, e ha permesso l'elettrificazione del mondo. L'Ottocento è il secolo in cui si copre come domare l'elettricità e il campo magnetico. Una serie di scienziati cui nomi noi utilizziamo tutti i giorni, Volt, Ohm, Siemens, Edison è quello che inventa la lampadina che utilizziamo tutti i giorni, che capisce come trasportare l'elettricità ad enormi distanze, la corrente alternata, senza disperderla, che era fondamentale. Quindi se noi oggi abbiamo l'elettricità in casa, lo dobbiamo a questa persona, Nikola Tesla, a cui poi i fisici hanno intitolato un'unità di misura. Sai Sergio, io ho trovato in questo vostro lavoro tanto equilibrio. Avete in un certo senso appagato alcune curiosità, e dall'altra parte però avete dato spazio veramente all'uomo e allo scienziato. Come mai ha preso così tanto piede per Tesla questo mondo così bizzarro, così eclettico? Beh, diciamo la spiegazione in parte semplice l'ha data John Ford nel film L'uomo che uccise Liberty Valance, quando James Stewart dice: tra la leggenda e la realtà vince sempre la leggenda, perché è più bella e funziona di più. Tesla è stato uno dei tanti scienziati inventori che sono nati tra 800 e 900, come Edison. Lui ha lasciato l'università, aveva una